un rossetto sulle guance, guarda come piange un clown per dirti ciao. Dai che sono grande nel mio disordine, ci resto io. E non devi rispondere, nessun dolore che non è la Madame Butterfly. E se ti ricordi, spegni tutto quando vai. Puede ser.